che ce l'ho, credo che la possa entrare, però ce l'ho mesi e mesi fermo, non vorrei che adesso nel frattempo l'attacco a vedere così, tutto pieno di polvere pure, madonna, era proprio abbandonato, dai, si sono tanti che sto abbandonando qua e mannaggia la miseria che non riesco mai a provarle, capito, adesso c'ho sempre questa attaccata, ma lo voglio attaccare, lo voglio accendere un pochettino se funziona ancora bene. Capri 2, ah, che bombola, adesso ti sente. Sì. Sì, no, una cosa normale, stesso, un microfono normale, perché quello suo mi pare che qua va in scale, credo, e quello amplificato non so se va qua, a te lo provo, ma mi pare che non andava. aspetta sottofondo, lontano, lontano, uno parlando. Lo senti tu, Artu? Già, pare che faccia del rane, qua. Non riesco a tirarlo fuori io, però troppo piccolino, non lo tiro fuori, non lo so. Uranio, tu non senti nessuno? No, ragazzi, io non sento proprio nessuno. Sento te a Corso, a Capri, insomma, io quando c'è a Lucino, basta, ok, tutto, niente altro. Luigi, mandami un po' di GRC. Guarda che sta uscendo adesso. Sì. Va bene o male? Va a passaggio più lungo. Vedi un po' se devo passare o aumentare o devo fare qua. No, sembri ci sto porrando. Voglia. Perché scollego gli altri, li metto da una parte, io mi c'è a spolverare, ok? Se vogliono spolverare, noi stiamo operando lì, capito, ma... Sì, ho toccato io, anche se non so se l'apparecchio per dire così, se non lo usi, dovrebbe lo stesso, come ho detto prima io, se devo stare sta tranquillo, anche se no con l'apparecchio si guarda, senza problemi, se non dispiace, no, tra il proprietario deve dimostrare per farlo mettere a posto. Quindi se decide, diciamo, che funziona bene, funziona bene l'apparecchio. Va bene, dai, comunque l'importante è che funzionino sempre, dai, come questo è portato da te, tu hai detto che sono in finale, adesso ancora non ho avuto possibilità di portarlo, ma ce l'ho fatto, me l'ho fatto a farlo mettere a posto con lui, che diciamo non dispiace essere così, dai, che è un bellissimo apparecchio che mi è calato, quindi me lo farei scatto, diciamo, lasciarlo così fermo e non usarlo, ok. Benissimo, va bene, vediamo un po', Francescano. Un attimo, riprendi. Ok, ma c'è anche Gio Maria qua, Gio Maria. Gio Maria, niente, va. Va bene, Capri. Anche diciamo più del normale applicato, va bene, lascia un più, lascia. Chiamava sul 5. Aspetta. bagno, vai sul 4. Luigi, lo senti a Giulio? Non lo sento mai a Giulio io, Giulio! Io sono l'altro canale, controlla bene tutto, non ti sento su questa banda, eh! Ah Giulio, io lo sento come che sia in FM, non so cosa. Sì, sul 5 era più chiaro, qua lo sento male, Giulio non ti sento bene bene come sul 5, eh. Sì, come sì, non chiaro. Sì, non sei centrato bene. Adesso sì, ciao Giulio, buonasera, adesso sei centrato bene. Giocare sul tennis di piazza, riprendi Bobo. scappa, perché non me ne sono accorto che eri fuori frequenza, ha acceso un'altra radio e me ne sono capizzato. Vabbè, dopo un quarto d'ora non mi sono capizzato, dai, ciao, va bene così, non ci sono problemi. Riprendi lui. Sì, a Giulio, Graziano, non so che cosa inizia, ma fa il muro di piazza, ma ha fatto di piazza, ma le asciuttelli. Allora deve fare tu, ti può preparare una cosineggia solo, se fai il muro di muro, sì, la va muro di piatti. Ma hai inteso che la lavanda va le asciuttelle di piatti, non hai inteso Graziano, Giulio? La seduta li faccia muro di piatti. Dai, ciao fare Graziano, che Graziano è uno che sa fare tutto a casa. Non ha problemi lui, lui sa lavare i piatti, sa cucinare bene e dunque va bene così. Avanti Gianni Capridue, fatti sentire. Io non lo sento. Gianni sicuramente è stato il croma da quella radio. Allora, se la mette già Rudy, arriva addirittura prima pure la slitta, finisce con la slitta imparata. Come si dice in un caro il muro, rifate le piatti, così legge, fate tutto. Bisogna tenere un caro, e deve essere un conto burro. La chiamata da calamità, così mi burro tutto io. Ma così, allora ecco, tu non vai per la calamità da metà le mini. E allora, cosa mi raccontate? Lui, avanti. Giulio, cosa devo raccontarmi? Tra poco mi tocca andare a cuccarmi il burro. Scusa, non a giocare a cuccarmi. Devo lavorare stanotte, devo farmi mettere la nave, devo fare stanotte, capito? C'ho la nave, quella nave del carbone famosa e allora mi tocca di andare presto a letto, hai capito? Mi tocca andare presto a letto e riposarmi un po', che mi faccio la nottata, dai, domani sino alle 2 me la faccio questa notte e poi mi riposerò domani pomeriggio, capito? È tutto qua e bisogna lavorare, stiamo lavorando Giulio, ma ricchi non vi diventeremo mai. Quello sì, quello è vero, ma perché per diventare ricchi uno bisogna che sia disonesto, o quantomeno che sia uno sfruttatore di umanità. Vabbè, noi non ci siamo pure a fare queste cose. Andà bene. Avanti, bambola. Gappa, siamo travaglianti per avere un piatto di minestra a casa. Non è che siamo travaglianti per arricchirsi, no? Ma come ci sono altro, va più. Cosa vuoi che ti dica? Niente di particolare. A Gaetano non gliene passo il microfono, intanto sta lavando i piatti, lo passo direttamente a Uranio, avanti Uranio. Gaetano, tanto da fare c'è cucina, o cucinare o piatti. O piatti o cucinare, insomma, sempre la cosa da fare c'è a lui. Benissimo. Niente, no, non si devono mai svelare i segreti, no. No, mi stavo chiamando dall'aldilà, mi stavo chiamando. Vabbè, dai, niente di particolare, stiamo solo giocando, basta, tutto lì. È uno scherzo, ora. Grazie, la madre dai, ti piace. Comunque, Giulio, ti ho sentito di sbrattero io, ero sul 4 qua, e c'ho questo sartonetto, ti ho sentito di sbrattero, lo sa, sul 5 che chiama via Graziano. Ti ho sentito di sbrattero, infatti ho detto Graziano, c'è uno che ti sta chiamando sul 5. Capito? Non ti ho sentito proprio di sbrattero, Figuriamoci. Sì, infatti io ho chiamato sul 5 perché non avevo acceso, non c'era nessuno, stavo chiamando, ecco qualcuno si affaccerà, invece voi la mate qua, sul 4. Va bene, noi siamo vicini con lui. Tu la radio questa mi ha detto che è forte anche, dunque, essendo vicini, è possibile che mi senti anche di splattere, capito? No, ti ho sentito da 4 a 5, siamo vicini, ti ho sentito. Ma intanto questa radio non dovrebbe, se avete una 48 di quelle lì, sì. Perché non anche altre che... Chi è Sandro questo? Scusa un attimino, mi sta chiamando mia moglie, scusate un attimino. Sandro? Datemi il controllo per favore. Ora. Ci siamo sulla bullolata, avanti cosa chiedete? Sì, un controllo per favore. La radio è buona, il segnale non lo so perché non ne ho guardato. Boh, vediamo, un po' segnale, se metti l'importante te lo dico. C'è a fondo scala qua, a fondo scala, 9.30 e oltre. Ah, dove sei? C'è a fondo scala anche qua. Avanti l'amico, chi era? Uno cattivo, uno molto cattivo. Tu non sei capito niente perché con quella radio non sei capito niente. Va bene, facciamo girare, va Giovanni. Aspetta un attimino che vedo un attimino di girare. Benissimo, vediamo un attimino adesso, guarda un po'. Chiudi il Mickey Gay ancora, tu, quel Mickey Gay, chiudalo ancora. Guarda adesso se va meglio. Chiudi ancora il Mickey Gay, chiudilo ancora. Guarda adesso se va meglio, diciamo va bene. Chiudi ancora un altro po', il Mickey Gay, chiudilo ancora. Adesso? Fai un passaggio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Sai che stai a migliorare, Giulio, è vero Giulio, stai migliorando la voce. Era troppo aperto di radio di Mickey Gay. Chiude ancora il Mickey Gay e abbassa un pelino l'eco che lo sta rispettando. Oh, c'è qualcosa che lo rispetta, mi pare lì, o sbaglio. No, questo è l'eco normale, no? E cos'è fa? Prova a fare un passaggio. Non lo so se va bene, diciamo credo di sì, no? Potrebbe anche quasi andare adesso, però non ho... è meglio di prima, già è, diciamo la verità. Prova a battere ancora quel Mickey Gay, cosa succede? Benito! Buongiorno! Sì, Antu. Vado a vedere se ti piace questa. Questa è bella. Mi allontano, dai! Forse mi sento troppo, sei lontano qua al momento, scusatemi. Ehi, Giulio. Ehi, ma che è, Sandro? Ma è Sandro che stava provando questa radio? Antonio era, Antonio Grotte era. Chi era, Sandro o tu? Antonio Grotte per me era, perché non si capiva a me niente. Questo sono io. Prendi. Esatto, boh. No, a me non mi piace lo disordine, quando vedo disordine sembra che è sporco, invece se è tutto in ordine, ogni cosa al suo posto, mi piace, non vedi niente, in giro vedi solo gli uccisi che c'è all'esposizione, così, boh, capito, mi dà fastidio a me il disordine. buonasera, buonasera, siete la qua vite, meglio la, il ghiaccio sta facendo tanto, quindi posso dare grandi, eh. Oh, cosa, notte. Capri 2, vabbè, io ne approfitto a salutarvi, dai, ciao Luigi, appena rientra, ciao Capri 2, ciao Uranio, e ciao Antonello, salutone anche che l'ascolto, buon proseguimento di serata a tutti, buona festa, ciao ciao, alla prossima. Ciao, grazie, ci sentiamo, salutone, stiamo bene, alle prossime. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Il nostro di serata, anche se diciamo è malotta come serata, è anche grandiosa, siamo da pure. Ciao, grazie, ci andiamo alle prossime. Ok. Allora, ragazzi, cos'è che è confuso lì? Interruttore, cos'è? Cioè, stavo facendo vivere, ma mi sembra che è, oh, e poi ho finito la quindi va bene lo stesso, le fratture serve solo ricezione, ma non serve in trasmissione, solo ricezione. Pare che la verba prepararsi, diciamo, lui si mette a gridare, capito, quando parla, c'è la voce che sembra un trombone, ecco perché che esce così forte. Se non lo senti così, no, a lui. Lui è abituato a stare nelle piazze, è come Tarzenda lui. quando cade sull'antenna con la maledettissima acqua, stupida acqua, mi crea problemi alla stazione, capito? Se si è avvicinato, beh, quello lì è una cosa normale, perché se non la usi spesso, se non usi spesso lo strumento, ti puoi dimenticare qualche cosa, come ti stavo dicendo alla fine, usando lo strumento, diciamo, riattivi tutto, diciamo la stazione come prima. Ma se tu la usi, diciamo, una mezz'oretta, un'oretta, ti riprendi, diciamo, tranquillamente. Magari sbagliare qualcosa in qualche grado, non ti ricordi, magari diciamo qualche non so, qualche passaggio, ma usando diciamo di nuovo lo strumento riprendi di nuovo a suonare, diciamo, come di una volta, ok, tu con lì hai fatto. Invece io mi riprendi subito, io canto perché no, corretto, sì, ricordo benissimo il massimo la tastiera, che è già una cosa buona, una linea è abbastanza buona, non è male, però diciamo che io penso sì, diciamo, uno che mi segue l'ultimo volta che mi segue a usare subito, riesco a parlare subito, ok, ma perché diciamo usarlo così è un caso da me, la tastiera. E qualche conduccia, diciamo, la professoria, sono bilanci, riesco, diciamo, a raccontarla, capito? Tutto lì. Riprendi. La chiesa in chiesa lì, vicino Gigi e nostro fratello. Antonio mi pare, può essere Antonio? Break! Giovanni Riccio. Break. Che l'altro fratello è cugino, dai, come sono cugini. Gigi, sì, Gigi, che non l'ho più visto, non mi pare che era anche un po' mezzo malato, oppure non lo so. È tutta gente che non vedo da anni. Capo, sì, lui era bassista, buonasera a tutti, Gianni doppio Runo, auguroni e tutta la rotta, avanti. Ah, è ok, Gianni, mi hai visto, le cambiati gli auguri e altrettanto a te, auguroni anche a te, e saluto cordiale, ok, avanti Cassi. Che mio figlio stava parlando, puoi ripetere che stava parlando mio figlio, non ho capito uno. Vabbè, come è andato il Natale? Festeggiato bene, vabbè. Miei soci. È interessante stare in armonia in casa, già va bene. E tu, non mi viene un attivo adesso, vabbè. Come ti chiami? Non lo ricordo più. Osi, là avanti, non mi viene nominato tipo. Ehi, orario, orario. Ehi, come vuoi che l'abbia passato? Io l'ho passato qua da solo. Per me stesso, diciamo, è più, è 4 ore più che sono questa, è questa bicchietta capiccia. Ok, tutto lì, niente di particolare. Ovviamente con il portafoglio, diciamo, vuoto e via dicendo. Chi ha passato bene il locale, diciamo, a chi diciamo, a subito che conosci Non ti preoccupare, interessante è passarlo sereni. Interessante è passarlo sereni. Poi, meglio soli che mal accompagnati, ci fa quello. Buona serata, ci sentiamo. Avanti, capitolo. Questo periodo di Natale anche a noi sempre si sfasciano i miti, sempre, non c'è volta che non si sfasciano i miti. Adesso si è rotto in cose le aiutami, quando stelzi, cavolo, fa un rumore aspetta, è giunto. Si è fatta amici anche di zingari là. Papà, come stai ascoltando Gianni Didi, che sto usando il mito, non so se te ne sei accorto. Che scoppio. No, per 95, dai. buonasera, Marco Scorpion. Gianni, non ti ho mai sentito così bene come stasera, Gianni doppio room, ciao Gianni Capri, ciao a chiunque fosse in ascolto. Marco Scorpion, voi venite a me come mi ricevete. Ciao, ciao Marco, è un po' di radio, ma già si capisce bene, dai. Questo è il Midland serie Plus, l'Alan Plus, quello praticamente no, il digitale, dai, quello che hanno fatto dopo l'Alan 48 normale. No, va bene, dai, lo sto usando con un microfono MB+5 e la capsula del Sirio. Allora, sentito così chiaro e così bene, ottima, ma veramente cristallina, l'emissione è la più bella di tutti gli apparati con quali ho sentito, stasera è veramente eccezionale. Bene, non so se qua mi ha dato qualcosa, io sto usando invece il tram 201 con il microfono da tavola LSBE. Ma però non ti sento forte, forse dovresti alzarlo, non lo so Marco. Non ne ho qua, ho guardato ma non ne ho. Questa, sai com'è, i microfoni rimangono inattivi per tanto tempo, le batterie poi sono, tra l'altro l'ho messo al massimo, è a 10, più di così non va, deve essere ormai scarica. Sì, tende a sparire la modulazione Marco. Non c'è. Adesso guardo, ma non ne ho visto qua in giro di questo tipo qua. Comunque il tram è un ottimo apparecchio, l'ho visto, cavolo, bellissimo. $1,900, un altro 1,800 e rotti, 1,990 mi sembra. Tu quanto avevi pagato? Molto? No. Non mi ricordo già, ti direi una fesseria. Questo me l'aveva dato Walter in una delle operazioni che ogni tanto facciamo. Ma è perfetto, guarda, è veramente a posto di tutto. Però c'erano un paio di cosettine, le ho riparate. E poi soprattutto lo so, c'è batteria, è finita la batteria. Adesso ho visto qua ce n'è un altro di tutti i microfoni da tavolo, se c'è la batteria più carica. Adesso prova a cambiare, dai, un attimino prova a cambiare la batteria, fa girare. Comunque auguroni Marco, dai. Anche se buffato non ho sentito, comunque deve essere un'altra frequenza, qua perché da qui anche a lui se la ascolta. Cappa, avanti di nuovo Capri. No, questo è il 48, Alan 48 plus. Ciao, già auguri, sono in Corex. Ciao, parla auguri anche a te. Sì, va bene. Questo per dire ero mesi e mesi che non usavo questo apparecchio qua. E non so come sia la batteria, però a quanto pare è buona perché sta uscendo bene dallo strumento, si vede che va a fondo scala, quindi dovrebbe essere ottima ancora. ci devo dare a Stefano, è vero. Il Traver più 2 U da Palmo, quello lì è molto buono con il microfono. Ma dipende dalle voci, dalla timbrica sempre, perché ha molti acuti, è un po' metallico. È proprio la caratteristica del Traver, dai. Sei rientrato? Sì, ci sono, dai, ho cambiato apparato, così questo non c'ha bisogno di niente, dovrebbe andare bene, dai, dimmi un po' Gianni se è OK. Sì, questa è la modulazione, si sente abbastanza bene, dai. No, l'altro lo teneva a sparire, Marco, probabilmente la batteria scarica proprio, perché tendeva proprio a sparire piano piano, mentre parlavi svaniva da sola. Non c'è più batteria, non ne ho qua a portata di mano. Va bene, e allora niente, ho messo il... questo è il terzo, la 3SB140 la base, della Lafayette. Già lo conosco. E adesso se un amico va fuori, niente per portare qualcuno sicuramente, per portare qualcuno va fuori. E vediamo un po' se si può fare qualche affare, perché dove va riprendono una cartata queste stazioni in base. Addirittura, cos'è? C'è un posto dove ci sono queste offerte. Allora c'è un posto in Belgio dove c'è un grande capannone tipo Portobello che vende radio, queste cose qua, seconda mano, roba proprio di quelle vintage, proprio di quelle che cerchiamo noi. Bellissimo, allora dai, chissà che non ci sia qualche bella opportunità. Bene, e poco fa non ci siamo sentiti, o perlomeno impegnati in queste cose, tanti auguri anche a te Gianni, non ce l'avamo ieri, non ce l'avamo sentiti per scambiarci gli auguri di Natale. Molto bene, dai, vediamo un po' se Gianni lì mi sta ricevendo bene adesso. Gianni, Capri 2, mi ricevi bene stasera? Questo è il 140, l'SSB 140, il base, il 924, aspetta che vado a guardarlo che non me lo ricordo qual è, ma dovrebbe essere quello con forse quello con i due strumenti, aspetta che lo ricerco. ok, sì, che c'ha un po' l'aria del Comstat, vedo esteticamente, quello lì. Vedo che c'era anche una versione, ci sono un paio di versioni a seconda, cambia leggermente i colori, ma non è valvolare, è transistorizzato comunque già. QSL, sì, ma va bene già, ti ascolto bene. Adesso mi sa se tanto che fate un giro, non so, c'era anche Claudio, ho sentito, magari lo metto in funzione il Comstat, dai, così anche quello prende un po' di corrente. Allora Gianni, doppio uno, antenna a te, un attimino attacco anche il Comstat valvolare. Vedi, dai, contraccambio gli auguri, Marco. E di solito ci facciamo i messaggini, ma quest'anno è stato un po' così perché siamo andati alla messa di mezzanotte, quindi eravamo fuori e non ho avuto modo di farli, dai, ho dovuto spegnere il telefono perché ero in chiesa. KK. Claudio, avanti. Claudio, non riprendi tu K2. Sono salvavita, non devi eliminare, devi andare al dottore e dire che non ti stava facendo bene, te ne dà un'altra, magari è quella che non sopporti. Tu sei un po' ansioso di carattere, sicuramente queste cose che ti hanno dato da fare, aggiustare questi mesi, queste cose, buscare il pizzo, eccetera, eccetera, ti hanno creato un po' di ansia. Thank you. ecco, mi sono rientrato. Avanti, avanti Marco, riprenditi di tu. Ecco, guarda un po', questo è il contact, guarda, è praticamente pochi istanti che stanno lavorando la valve, diamo gli così lo facciamo un po' scaldare. Come va Gianni Capullo, come mi ricevi lì? Guarda, ti dirò che non ci ho messo mano ancora dentro questo qua, perché l'ho acquistato anni fa da un radioamatore nella zona di Pesaro. Era l'apparato che si aveva comprato lui quando era diventato CB, è un Comtat 35B che praticamente ha la manopola con la parte interna rossa, e niente, lui non ci ha mai fatto nulla, l'apparato è bello, cioè c'ha i suoi anni ma è a posto, nel senso che comunque è sempre stato lì nel mobile, nello shack, non ha graffi, non ha segni, il frontale è perfetto, immacolato come piace a me, con tutte le scritte, sai che i Comtat hanno quel problema che le scritte sono molto delicate e col tempo si cancellano, questo è perfetto, c'è proprio un frontale che è veramente cazza. Non l'ho neanche aperto, perché comunque l'ho provato, quando me l'ho dato, ogni tanto lo accendo, lo uso, vedo che funziona, non ci ho messo mano, in dotazione c'è un microfono, sempre Lafayette, marcato Lafayette, che è praticamente è come quello che usavo giù col Galaxy, che ha la rotellina nella parte superiore per regolare il guadagno microfonico, c'è una batteria da 1,5, tutto qui Gianni. Cappa, bello, quelli belli non ne ho ancora visto in giro, si fa fatica a trovarli, come ti ho detto, con i frontali sani. Walter ne ha uno, mi pare un po' decente, però sono sempre un po' mezzo mangiate le scritte. Il tuo in che condizioni è già? Questo è il 35, questo è il 35, ma sicuramente si può lavorare, magari c'è solamente da regolargli un pochino la modulazione, non credo sia niente di grave, bisogna pentarsi, scaricarsi un po' gli schemi, dare un'occhiata, individuare dove regolare, dove agire sui trimmer da agire e si fa spingere. Io qui vi sto anche ascoltando, ora vedo che comunque questo invece continua a funzionare bene. Vero Gianni Doppio KK, sì, va, va ancora, dopo tanti anni. Anche io questo ce l'avevo fermo parecchio tempo e non lo stavo più usando questo qua, da quando c'ho il Magnum stavo sempre usando quello, anche perché spazia su diversi canali, questo qua si può portare mi pare a 400 e passa a canali, questo con una modifica ma non l'ho mai fatta, l'ho voluto lasciare originale. Guarda già, lo so che non è bello sentirsi dire certe cose per certi versi in virtù dei soldi che hai speso, ma questa radio che stai usando adesso è nettamente superiore come qualità. E io ad eccezione devi sentirla, sembra il gas, io ad eccezione questa qua. Si sente un bel bene, non ha bisogno molto di altro parlante esterno. Guarda, ti dico, eccezionale, ottima, proprio cristallina, una bella emissione, sembrerebbe quasi una, non sembrerebbe un Kenwood. Sono anche con i capi, sono sdraiato nel letto, quindi non sono vicino, sono molto lontano, se mi avvicino, guarda, se cambia. E è già fortissima così Gianni, va benissimo già così come emissione. E adesso ti ho portato un pochino di alternata già, ti dicevo, me l'ha dato con questo microfono Lafayette marcato, però praticamente è sempre quel classico microfono da palmo nero, con la rotellina nella parte superiore, capito? Che c'è, c'è con, tutto, con i nomi di tutta l'azienda. Però questa verba, il microfono suo originale non l'ho trovato nei traslochi, cose varie, l'aveva perso, usava sempre questo qua. E ti dirò che è vero che va bene, niente, non ci ho fatto nulla, continuo a usarlo così. C'hai un po' un innesco sotto, in questi ultimi passaggi c'avevi un innesco. Qua è commovente, c'è anche la lucettina della Pixa che lampeggia secondo la intensità della voce, commovente. Ma non abbiamo sbagliato il canale stasera. Sì, ma vabbè, ormai siamo qua, non c'è problema. Però Gianni è commovente, guarda, credimi, è commovente. Anda, va benissimo, dai, ogni tanto bisogna togliere i fuori questi apparecchi. È che io sono fissato con i base, a me quelli veicolari non mi piacciono più di tanto, mi piacciono i base, sono come te. E io, solo base, cioè ne ho anche veicolari, però a me piacciono solo i base, solo quelli. E chissà che non arrivi per il primo posto questo DAC, guarda, ce l'ho mesi e mesi in assistenza, non stanno restaurando completamente il valvo, tutto quello che c'è da fare, ho detto guarda, fammelo, lo voglio nuovo, deve essere una bomba, se non è così quando ritorna guai. Ma il DAC, dove l'avevi preso tu il DAC? Il DAC me l'aveva dato Walter, che però non funzionava bene, ovviamente c'erano dei problemi, c'era un compensatore che era rotto, insomma, era da revisionare tutta la parte del circuito. La radio esteticamente è bella, perché anche lì tutte le scritte, tutto eccetera. Io gli ho fatto rifare i cofani, tra l'altro me l'ha fatti Roberto, rifatti bene i cofani, comprate tutte le viti come quelle originali, nuove, rimesse tutte le viti, le rondelle, effettivamente era bellissimo, è bellissimo perché è nuovo. E poi bisognava fargli fare tutta la parte della circuitazione, ma l'ho spedito a certa assistenza, c'erano già 4 mesi, una cosa del genere. Stava aspettando dei pezzi, insomma lo sto facendo fare bene, già è inutile se poi non va, cioè, a me mi piace anche così come in questa circostanza, a 40 anni la radio, però mi piace poi accenderla e usarla. E beh, certo di sì, poi è un apparato che ne vale la pena di metterlo a posto, perché è veramente un bel apparato. Io quando l'ho visto da parte me ne sono innamorato, mi voleva dare quello, mi ha detto già che prenditelo uno, te lo vendo, però mi voleva dare quello con la manopola che girava male, che era tutta barriduccia. E io siccome sono pignolo, ho detto no, parte, se mi deve dare quello buono, se no non... Allora ne aveva due soli, poi dopo se ne ha trovato altri. Non so quanti ne ha preso, perché uno è andato a finire poi quello che c'ha Claudio, che era di... Walter l'aveva dato a un suo trasportatore, e poi c'era Claudio. E poi ne aveva uno sistemato lì assieme alle apparecchiature HF, e poi quest'altro che era di fianco. Niente, questo però, ti ripeto, era affrontare la posta, in realtà c'è un vetrino che ha una filatura, ma niente di grave. Per il resto, a me quello che interessa è ovviamente che poi non ci sia da rifare tutto dentro, perché poi è un problema, ma l'importante è che la radio abbia manopole, non sia mangiata, perché quelle cose lì non le puoi riparare, le scritte, se sono le scritte danneggiate, è un problema. Si possono fare, ma non riesci mai ad averle averle così come l'originale. Questo ad esempio è, questo Compact è bellissimo, è come, come se fosse stato il mio, è conservato nei 40 anni. Il tra, poi io li, quando li prendo poi li rismonto, li ripulisco tutti, mi dedico veramente con calma alla pulizia generale, a fare tutti i rifuochi, compro tutte le vernici, faccio le vernici usando le vernici di aeromodellismo, faccio tutti i ritocchi, insomma la riporto un po', cerco di riportarla un po' a uno stato più vicino possibile al nuovo, dai. Proprio mi sta uscendo KP2. Ma la regolazione c'è, è scaduto un po' il segnale, ma la regolazione c'è già. Va, io qua adesso ho abbassato un po' la potenza, va Gianni, modulazione ce n'è, il segnale è un pochino basso ma la modulazione c'è. È bello anche quello, e tipicamente sono, se non ci fosse questa cosa della manopola rossa, sono molto molto similari, sono molto sicuro. Adesso ci ho inserito anche un range boost, e c'è l'antenna, mi ricordo, super range boost. Va bene, dai, vedi che funziona, la radio c'è, come, è solamente un pochino più basso come segnale, magari sta dando qualcosa in meno, le valvole hanno d'altronde i loro anni, comunque va bene. Io qua non ho toccato niente, guarda, così come me l'ha dato, ogni volta l'accendo, lo lascio scaldare un attimino e poi va in trasmissione che è una bellezza, perché anche lui mi diceva che intanto l'accendo il presidente proprietario, c'è questa lucettina del PIX che è di una sensibilità secondo l'intensità quando parli, che come ho detto poco fa, Gianni è commovente. Fa l'occhiolino. Già, è commovente, guarda, sì, il colpo dovrebbe essere il 73, forse 74, Gianni, più o meno KP2, il 73-74, confermi, dovrebbe essere più o meno quel periodo sta qua, no? Figurati. Ma tu è bellissimo già, c'è questo rullo tic tac quando va in trasmissione che è un gioiellino. Va bene, dai. Ecco qua, una bella spazzolata di grandine è arrivata, ho sentito. Va bene signori, dai, scendo giù e niente, la cena è a buon punto, perciò devo lasciare. Grazie ancora delle quattro chiacchiere, del consiglio, ancora auguri, magari se qualcuno di voi entra dopo la cena, chissà, vediamo, se non c'è niente di particolarmente interessante in TV, magari si riaccende ancora un po' la radio, un'altra radio Simbio, e facciamo ancora altre due chiacchiere. Ciao Gianni Capidale, ciao Gianni Dottorru, chiunque fosse in ascolto qua, Marco Scorpio, ma anche Rotti Masi, va bene, ciao. Ciao, ci sentiamo Marco, stammi bene, dai, ciao. E anche io, dai, chiudo Caprile e vado a mangiare, dai, ci sentiamo magari più tardi, ciao. ciao ciao, io sicuramente dopo almeno due chiacchiere monitorizzo magari se c'è le vuotate, perché sicuramente entro a fare due chiacchiere e poi comunque magari passo anche sulla frequenza vintage sul canale 20. Ciao! Ciao ciao!